Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo la nostra conversazione interrotta ieri con Dario Narducci, professore dell'Università di Milano Bicocca, che è tornato a trovarci, nanotecnologo. Buonasera Dario. Buonasera. Allora, stavamo parlando di questa nuova tecnologia che state sviluppando anche voi lì a Milano, una tecnologia che consente la conversione diretta del calore in energia elettrica con l'utilizzo di alcuni materiali e di alcune tecnologie che sono lontane parenti delle termocoppie che abbiamo anche sui fornelli del gas di casa, quindi dei materiali opportunamente accoppiati senza parti in movimento che riescono a trasformare un po' di calore in energia elettrica, e quindi qui c'è un grandissimo potenziale. Dunque Dario, quanto calore buttiamo via? Ma il numero è sconvolgente, perché in realtà conviene darlo in percentuale: più o meno la metà dell'energia che noi produciamo, dell'energia elettrica che noi produciamo, e non soltanto elettrica, va via in calore. Cioè noi buttiamo via la metà delle risorse energetiche che riusciamo a produrre. E questo è un po' è come dire inevitabile, nel senso tutti i processi di trasformazione dell'energia alla fine producono un po' di calore a bassa temperatura che di solito non sappiamo bene come utilizzare. Questa tecnologia verrebbe a intervenire proprio qui. Allora, ci fai un po' di esempi di varie possibili applicazioni? Sì, faccio solo una piccola premessa aggiuntiva, è che ovviamente non è che tutta quanta questa energia sia buttata via per nostra indolenza. Certo, infatti. Va buttata via per forza, in parte. In altra parte, diciamo, più o meno si stima una metà di questa metà potrebbe essere recuperata, e lì si pone il problema di come fare. Allora, quelli che si chiamano cascami termici, sì, cioè i rifiuti termici di alta temperatura, possono essere normalmente ben recuperati utilizzando tecnologie tradizionali come le turbine. Nulla di nuovo. Viceversa, la bassa temperatura è molto più difficile da recuperare in questa maniera, e l'impiego di, per l'appunto, fra le tante cose, le tecnologie termoelettriche permettono di ritrasformare, almeno in parte, ripeto, questo calore in energia elettrica. Casi applicativi, ci puoi fare qualche esempio specifico? Diciamo che il recupero di calore delle marmitte è quello sul quale si sta verificando la più evidente, il più evidente sforzo di applicazione delle materiali termoelettrici. Sostanzialmente l'idea di avere degli strati, delle contropareti di questi materiali, che questi io li chiamo pannelli termovoltaici, perché mi ricorda come dire il fotovoltaico trasforma la luce in energia elettrica, qui è il calore che viene trasformato in energia elettrica con degli oggetti per certi versi imparentati ai pannelli fotovoltaici. Sì, no? In qualche modo diciamo che il termine è suggestivo. È suggestivo, magari poco corretto, ma suggestivo. Allora, diciamo che sì, l'idea di fondo è di avere questi pannelli, queste contropareti che si attaccano, vengono agganciate sulla marmitta degli autoveicoli, che riconvertono una parte del calore che viene espulso attraverso i gas di scarico e danno non grandi potenze, sì, ma potenze più che sufficienti, per esempio, a ridurre in maniera abbastanza significativa, per esempio, le emissioni di CO2. E quindi da un punto di vista anche dell'impatto ambientale ridurre l'impatto ambientale, ecco, degli autoveicoli. Di che ordine di potenza stiamo parlando, per dare un'idea? Stiamo parlando di qualche centinaia di watt, ecco, in questo quindi momento, e stiamo parlando soprattutto di un mercato molto di nicchia. Qualche centinaio di watt, quindi utile a fare che cosa a bordo di un'automobile? Ma diciamo che l'automobile mangia tanta energia non soltanto per andare avanti, per muoversi, ma anche per tutta l'elettronica di bordo. Infatti, che è sempre più pesante. Pensiamo, e anche per il condizionamento, che è molto importante, certo, oggi. Invece, se pensiamo alle grandissime quantità di calore sprecate, se vogliamo dire così, nel mondo industriale, ma anche nel mondo residenziale, lì c'è qualcosa che si può fare? Un po' più di prospettiva, perché a me viene in mente il tubo della stufa. Certamente, ma non soltanto quello, anche le ciminiere, anche i termovalorizzatori, anche gli impianti stessi di produzione di energia elettrica, che disperdono parecchio calore perché non possono riconvertirlo, o gli impianti chimici. Certo, in linea di principio c'è una grande quantità di calore disponibile. Il punto reale di tutta questa vicenda è che non è soltanto un problema di rendimenti di conversione, ma come si accennava nella puntata precedente, anche un problema di geodisponibilità. Certo, di costi e di geodisponibilità, esatto, dei materiali, fine, certo, alla necessari. Fine occorre che la cosa sia, da un punto di vista economico, sensata, e deve essere anche che, dal punto di vista del budget energetico complessivo, che è un discorso un po' più complicato, ma deve aver senso fare lo sforzo di realizzare dei dispositivi che costano energia per produrre sufficiente energia. Grazie Dario Narducci. Grazie a voi. Per la verità, uno dei campi di applicazione più immediati per questi materiali termoelettrici è l'alimentazione di sensori o di oggetti che sono scollegati dalla rete in alternativa al fotovoltaico. È del tutto evidente che è un campo di applicazione di grande interesse proprio per la Smart City. Non abbiamo fatto in tempo a parlarne, sarà per un'altra volta. Per intanto ci dobbiamo fermare qui. A voi tutti buona serata.